standing on the corner, suitcase in my hand. And you know you're gonna make it another meeting. I know I'm in a rock and roll band. Jimmy was a waiter, Celia was a clerk, you know, a fucking clerk. Everybody wanted to go there and come to my flat because I had what they wanted to have. Sweet Jean. Oh, baby, sweet Jean. Hallelujah, baby, sweet Jean. Sweet Jean. Sweet Jean. Sweet Jean. Vabbè, e poi? Allora, nel mondo K si moltiplicano i musei per bambini, capito? Posti dove i bambini non si annoiano a guardare le cose esposte, ma le possono toccare e giocarci. Vabbè, però vedi che non è giusto, Drago. Ma cioè, cosa? Non è giusto, i bambini di oggi hanno tutto quello che noi sognavamo. Potevamo saltare. Vedi che però non è giusto, Drago. Ma cosa? E come cosa? I bambini di oggi hanno tutto quello che noi non ci sognavamo neanche. Lo so. Noi siamo l'ultima generazione di bambini antichi che c'è stata sulla Terra. Ah, televisione in bianco e nero, vero, videogiochi sì, sì. Assurdi, le stanghette. Cioè, Drago, ti ricordi o no? Ma lo so, però anche effettivamente i musei, guarda che io... Musei? Le visite ai musei a cui sono stato obbligato fin da piccolo mi hanno segnato per anni e anni. Io da adulto ho evitato come la peste ogni tipo di museo. Ancora oggi non è che faccia poi dei salti di gioia quando mi succede di visitare un museo, però da piccolo proprio non potevo sopportarlo. Però comunque guarda che i nuovi musei per bambini dove schiacci, tocchi, vedi così, servono anche per quelli un po' più vecchietti, cioè quelli che vanno al museo e dicono cos'è Picasso, non so fare anch'io, capito? Quelli lì, imparo, se possono schiacciare dei bottoni, forse meglio. Anzi, vanno meglio per quelli che per i bambini, solo che qui in Italia abbiamo solo Explora. Roma, che non è proprio un museo, è una città in miniatura in cui i bambini possono giocare a fare i vari mestieri, il benzinaio, il meccanico, il panettiere, il poliziotto, perfino il direttore di banca, immagino. Ma scusa, ma anche i più grandi allora lì a Explora potrebbero trovare un ambiente adatto a loro, quelli che hanno 25-30 anni, no? Certi mestieri non li faranno mai perché c'è la crisi. Ah, ho capito. No? Possono esercitarsi nella piccola città di Explora. Faccio il benzinaio, ma davvero? Explora. Impara, ma pure fa finta. Qui all'asilo Stoppani potremmo fare il museo dell'asilo gestito dalle suore. Una tipologia di asilo che sta sparendo con la sparizione delle vocazioni delle ragazze terzomondiali. Perché le ragazze terzomondiali non amano più farsi suore. No. E questo è il segno dei tempi. Sì. Qui addirittura possiamo mostrare ai bambini moderni Suor Dentona, una madre superiora nata nella prima parte del Novecento. Primissima. Una madre superiora di quelle vere, autentiche, un residuo del passato, una specie di fossile vivente, insomma, una leggenda che cammina. Drago. Una mummia. Che... Aia! Aia! Ma io te l'avevo detto. Piano. Ma Suor Dentona, mica stavo dicendo delle cose brutte su di lei. Ma stavi dicendo mummia. Beh, un po' mummia lo è. Aia, ma basta. E ora, bambini, ricreazione. Dai, Gildo. Tocca a te, rolla. Clicca qui. Ma non così, fai cadere tutto il tabacco. Tabacco. Ma sì, ma non capisci. Allora... tu devi fare piano, no? Col touchpad piano, sennò la cartina si piega e c'è Alberto, tutto, dove? No? Sento dove sei? Dove sei nascosto? Sento parlare, cosa stai facendo? No, sono qui dietro con Gildo. Stiamo rollando una sigaretta. Ma come rollando una sigaretta? Anzi, cercando di rollarla, perché qui siamo al decimo tentativo. Cioè, con lui è impossibile. Ma voi state impazzendo, non ci posso credere. Stavolta hai veramente esagerato, bambino sai, Alberto. Drago, non hai scusa, adesso chiamiamo immediatamente Suor Dentona, ma direttrice, genitori e tutto quanto. Ma come? Ma stanno giocando, sigarette, come tutti i bambini. Le hanno fatte. Appunto, no? Stiamo solo giocando. Cosa facciamo di male? Infatti. No. Cioè, ci togliete anche il gioco, la nostra vita non ha più senso, no? Soprattutto quella di Gildo. Beh, Gildo ha una vita immaginaria, per forza che senza senso, vabbè, dai. Drago. Anche senza sesso. Ma forse. Lasciali giocare, scusa, cosa devi rompere le balle? Siamo alla ricreazione. Lascia che giochi. Ma poi fumare, guarda che non è un gioco. Cosa dico? Giochiamo e fumano. Vabbè, Gildo, è una pazzia a quell'età lì. Vedi, quello più alto è quello che. Più vicino allo spirito dei bambini. Quello più piccolo. Il più piccolo. Ecco, sei adulto, tu, quello sempre stato bambino, quello più alto. Più alto. No, ma da quando? No, non con te. Ah, vedi, sempre stato alto, un'altra vita. Comunque, smettila! Stai rompendo le balle. Adesso non ci interrompete, devo continuare. Gildo, facciamo qua. Dai, facciamone una con la cartina, quella cartina di lino. Lino. Clicca qui, Lino. E facciamo col tabacco olandese. Tabacco! Sì, tabacco e cartine, però col touchpad devi fare piano, eh. Però stavolta faccio io. Allora, cartina, touch, filtrino, touch, tabacco. Touch. Dai, qui c'è solo, qui c'è il rollaggio. Vai col rollaggio. Ma no, mi è caduto tutto! Ma Gildo! E allora l'ho fatto io. Ma vabbè, ma io non riesco a capire, ma è un gioco in che senso? Perché cade la cade il tabacco, state rollando una sigaretta, non è un gioco, inutile far finta sempre sta questione del gioco. Ma gioco come del non fumo, è un gioco? No? Ma allora, questa qui, mi lasciate godere la mia nuova app o no? Questa app. È un'app nuova per il mio smartphone. Come l'app? L'app del fumo. Ma come forte, l'app del fumo? Bella, ma fa vedere com'è. Allora un guarda, gioco qua, no, guarda, è questo qui, vedi? Poi c'è anche questa, questo qui è per far rollare, poi c'è anche questo gioco qui che devi indovinare a chi passare la sigaretta. Come a chi passare la sigaretta? Sì, Don't Bogart the Joint. Ma ti metti a giocare anche tu, è un gioco da vietare ai minori. Comunque un'app che stimola il desiderio di fumare. Fammi capire come funziona un attimo, no? Prima ma se di ti metti a giocare con lui si convince di fare una cosa normale e il passo alla sigaretta vera è un attimo, ma capito? Ma tu intanto prima di criticare devi conoscere quello di cui parli, quindi prima lo conosci, poi semmai lo eviti, semmai. E guarda qua anche questo, guarda che figata. Allora, qui c'è il livello della batteria dello smartphone indicato da una sigaretta che si consuma. Così ti viene l'ansia, no? Allora provi l'impulso incontenibile di riaprire l'app e di farti un'altra sigaretta. È studiata bene, eh? È forte, sì. Gino, te ne faresti già un'altra, no? Sigaretta! Vedi? Sì. Allora, funziona o no? Sì, funziona forse fin troppo, anzi, io non so, questa è un'istigazione al fumo, sono veramente scandalizzato. Ma non inutile. È vero, ma dai, ma insomma, guarda che questa qui è pubblicità occulta, delle multinazionali, sono sicuro, quelle del tabacco, stanno facendo, scusa, cercano di entrare anche nel mercato c'è la moda delle bambini. Sigarette elettroniche, tutte queste sigarette elettroniche, che dicono che vanno bene perché fare il fumo, insomma, è vero, il vapore acqua. Quello ad esempio si potrebbe fare. Ma non è vero, quello c'è la gestualità vera della sigaretta, questa qui è un'app, almeno ci giochi, no? Sdrammatizzi. Allora, Drago, ogni volta andiamo a sorbirci la tua tragedia greca. Sì, mamma mia! A te la parola virtuale, non dice proprio niente, virtuale. Si gioca! So che per te è difficile comprendere la parola gioco, no? Ma fai uno sforzo, no? Ha ragione, scusa. E poi, scusa, se non riesci ad adattarti. Se non riesci ad adattarti al progresso. Ma quale progresso? Ma chi te lo dice? Chi ti obbliga? Ti ridi la vita privata, no? Ti resti nella tua stanzetta e pensi al passato. Vabbè, dai. Ha ragione. Adesso passo io per essere quello che. Tu invece cosa fai? Le app delle sigarette, cioè sono dei bambini. Ma allora, cos'è? Ma io spero che sia tutta una finta. Se permetti, noi qui ci stiamo divertendo. Vabbè. Quindi noi dei tuoi scrupoli morali ne facciamo anche a me. Scrupoli morali. Vabbè, basta. Allora, metto a giocare con loro. Fate Bobis. Mettiamoci lì sua. Facciamo una col tabacco americano. Anch'io, posso io. Poi vorrei farne una con quel tabacco. C'è un tabacco pakistano? Qui c'è tutto. C'è pakistano. Sull'ordine? Pakistan, che hai visto tu nelle aree geografiche. Vedi? Pakistan, sì, vai. Ce l'hai? Facciamo quello, dai. Facciamo quello. E cartine usiamo quelle di vegetale, tutte vegetali. Senza colla, perché la colla poi fa male. Allora. Ma tu, Gildo, a proposito, intanto che rolliamo, ma tua mamma, no? La signora Milfia, ma lei fuma? Mamma fuma, fuma. Fuma, no? Fuma. Sì, sì, perché lei è una donna di mondo, lei fuma. Ma da fuma. Allora devo fumare anch'io, no? Devo fumare anche noi. E fumare anche noi. Capo, facciamo quella col... Col? Col pakistano. Allora. Rolla tu, perché almeno... Dammi il ma touch. Qui c'è... Ma col touch. Quindi touch. E touchpad. Sì, c'è, qui c'è... Touch. Riscaldamento. Ma è touch o touch, no? Capito? È touch. Ma bisogna scaldarlo? Chiedo asilo! Mancano. 44 giorni alla fine del mondo. 44 44. Va così avanti fino alla fine. È una specie di mantra della gioia, non senti il mantra? Sì, il mantra. Bravo, il mantra. No, il mantra qua del 44. Sì, che non è. Non è quello che sembra. No. Vamo a sballare la bamba. Non è quello. No, a sballare la bamba. Ma è tipo George Harrison, no? Il mantra. 44. Oh yeah. 44. 44. Vamo a sballare la bamba. Vamo a stirare la bamba. Tanto manca 44 giorni, capito? Allora. Fiesta, no? Venerdì. No. No. No. Domani che giorno è?